11.04, bentornati in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout. Prosegue la mattinata informativa e come ogni martedì mattina torna in onda Parole Ribelli, la trasmissione settimanale del collettivo universitario autonomo di Torino. Oggi la formazione attuale di Parole Ribelli è dimezzata, quindi sarò da sola a tenervi compagnia fino alle 12.45. Ne approfitto subito per mandare un saluto e un in bocca al lupo a Eddie, impegnata con questa lunga sessione estiva d'esami. Come sempre le temperature dentro lo studio di Via Cecchi rasentano climi tropicali, quindi farò del mio meglio per rimanere in piedi e rinfrescarvi un po' questa torrida giornata di luglio torinese. Allora, come sempre, prima di andare a presentarvi la puntata di quest'oggi, vi lascio ancora un po' di musica per iniziare a scaldare i motori, poi ci risentiamo tra pochissimi minuti. Chi è? Scusate, signore, se mi non mi posso. Sangre, lágrima, mara. lasciano sta andando, non può cambiare. Lutto e sangue e lacrime amara. Piglia le vie, sto prepara da soffrire. Sotto, allora 11 e 12 in questo martedì 14 luglio, torniamo in onda con Parole Ribelli. Come sempre vado a presentarvi brevemente la puntata di quest'oggi. Inizieremo con un po' di rassegna stampa dal locale, in particolare con qualche aggiornamento sulla vicenda dell'amianto a Palazzo Nuovo, di cui ci siamo occupati più volte in questi mesi. Ultimamente, in queste settimane, insomma, era calato un po' il silenzio sulla vicenda, ma negli ultimi giorni ci sono stati appunto alcuni aggiornamenti, soprattutto verso quella che dovrà poi essere la riapertura della sede delle facoltà umanistiche dell'Università di Torino. Per quanto riguarda invece il piano nazionale, andremo a fare un collegamento con un compagno degli studenti medi per commentare quella che è stata l'approvazione definitiva da parte del governo del DDL sulla scuola, il cosiddetto decreto Renzi-Giannini, autoproclamatosi della buona scuola, un'approvazione che è arrivata insomma dopo alcuni mesi abbastanza travagliati tra le proteste, insomma le difficoltà del governo, che però ha poi deciso di tirare dritto. Ma chiaramente la partita non è chiusa, ma anzi si tratterà di rimettere tutto questo in discussione a partire dall'autunno, andando a contrastare insomma le forme concrete poi dell'attuazione di questa riforma. Quindi andremo a commentare un po' questa notizia, anche a farci dire quali saranno i prossimi passi per contrastarla. E sempre in materia di riforme andremo anche a dare qualche aggiornamento rispetto a quello che è l'altro provvedimento che si affaccia all'orizzonte per quanto riguarda l'autunno, e che è quello della cosiddetta buona università, che dovrebbe appunto seguire quello della buona scuola. Nelle scorse settimane c'erano stati alcuni abbozzi di primi provvedimenti che venivano infilati dal governo in mezzo alla riforma della pubblica amministrazione. Ora sembra che ci sia stato un passo indietro, ma l'impressione generale è che questi stessi provvedimenti torneranno appunto ad affacciarsi in autunno con la riforma degli Atenei, quindi andremo a commentare un po' anche questo. E in conclusione terremo fede al nostro appuntamento con le storie di Valderrama, che in queste ultime settimane vi abbiamo fatto conoscere e ascoltare. Vi passeremo un nuovo episodio. Quindi questo è più o meno quanto. Io vi lascio ancora un pezzo, poi iniziamo subito con la puntata. Svako dobro, Bosno i Herzegovino. Prilì, pa, pa, pa, pa, pa! Bolle ganja on the sex, bolle svar. stvaram novi zvuk, lakše stvaram novi tekst. Relax, smo taj! Drugu mrva pukla je ko heks. Yes, jedan nije to samotaj next. Yes, easy dolazi kroz šita stres. Ne ukapam se ja u sav taj mes. Blam, blam, svaki dan sanjam autoban. Blam, blam, kutko krenem samo makadam. Blam, blam, ja obrate kako sam i serviram. Blam, blam, nad glavom nam visi kran. Blam, blam. .250, sempre all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. Vado a fare quello che mi sono scordata di fare in apertura, e cioè ricordarvi i contatti della radio per scrivere e telefonare nel corso delle trasmissioni. Allora, per gli SMS potete scrivere al 346 667 3263, mentre il numero del telefono fisso è 011 249 5669. E allora, come vi annunciavo pochi minuti fa, iniziamo con un po' di rassegna stampa. Andiamo a dare qualche aggiornamento sulla vicenda dell'amianto a Palazzo Nuovo, questione esplosa ormai alcuni mesi fa, all'inizio di aprile, che ha portato poi alla chiusura di tutto l'edificio, con tutti i disagi che ne sono seguiti per docenti, ma soprattutto studenti costretti a spostarsi di qua e di là tra sedi provvisorie, ovviamente anche per i docenti, con l'impossibilità di accedere alle biblioteche che solo pochi giorni fa sono state in parte rese nuovamente accessibili. Nei mesi scorsi, appunto, l'unica costante in questa vicenda è stata l'incertezza su quello che sarà il futuro di questa sede, con un rettore Aiani che, insomma, da un lato prometteva che avrebbe fatto il possibile, ma dall'altro mostrava, insomma, una certa difficoltà di fronte a questa vicenda, che sicuramente non è solo responsabilità sua, ma arriva da anni di incurie, di disattenzioni dei rettori che lo hanno preceduto e che hanno sempre sottovalutato la questione dell'amianto, nonostante, insomma, le tante voci che invece da parte di docenti e ricercatori mettevano in allarme su questo pericolo. Ma appunto la questione infine esplosa e insomma, appunto, nei mesi scorsi si parlava di una possibile riapertura già adesso durante l'estate, mentre notizia degli ultimi giorni che leggiamo dai quotidiani locali è invece che lo Spresal, che è l'ente che si sta occupando di seguire le procedure di bonifica, ha suggerito al rettore di aspettare ancora un paio di mesi, e quindi la possibile riapertura slitterebbe a settembre, ma anche qui il condizionale è d'obbligo, perché appunto di certo c'è ben poco. Al momento, appunto, sono iniziati i lavori, sono diversi cantieri che sono stati aperti all'interno dell'Ateneo, in particolare riguardano la rimozione del linoleum che ricopre, insomma, buona parte della pavimentazione dell'Ateneo, e la pulitura di biblioteche, aule studio, eccetera eccetera. Il costo che l'Università di Torino ha stimato per la messa in sicurezza dell'Ateneo ammonta a 2 milioni di euro, e sempre notizia dei giorni scorsi che il Ministero dell'Istruzione, per voce del MIUR, ha, insomma, annunciato di voler contribuire a questa spesa dopo che alcuni, insomma, deputati torinesi avevano fatto presente questa questione al ministro Giannini, che ha detto, appunto, che contribuirà a queste spese. Però, insomma, stiamo un po' a vedere. Chiaramente continua per ora questa gestione emergenziale, che per il momento insomma è stata un po' sopita in queste ultime settimane, non solo per il silenzio appunto dei quotidiani locali, ma anche perché insomma in un momento di sessione di esami probabilmente la situazione si è un po' normalizzata, ma è chiaro che con la riapertura a settembre e l'inizio delle elezioni difficilmente questa situazione potrà andare avanti a lungo, ma finirà per insomma esplodere un po' il caos, appunto con migliaia di studenti costretti a spostarsi qua e là in sedi ovviamente poco adatte ad ospitare questo tipo di attività. Quindi è tutto molto in forse. C'è da dire appunto che anche l'università in queste settimane ha un po' allentato il suo tentativo di insomma quello che era almeno a parole il tentativo di chiarezza da parte dell'amministrazione. Abbiamo visto che fin dall'inizio il rettore Ajani si è invece un po' barricato dietro la vicenda, cercando di risolvere tutto internamente e rifiutando un po' il confronto anche con chi invece gli chiedeva un po' spiegazioni di questa situazione che, come dicevo, insomma non è esplosa dall'oggi al domani, sicuramente non è solo responsabilità sua, ma sembra abbastanza evidente che delle notizie in questo senso ci fossero già all'inizio del suo mandato e che siano state un po' sottaciute fino a quando appunto non c'è stato un intervento dell'ASL e della procura che ha fatto esplodere il caso. E appunto in questo sarebbe bene che invece vicende di questo tipo non debbano sempre aspettare di vedere esplodere il caso mediatico, ma vengano affrontate per tempo, tutelando innanzitutto la salute di chi ogni giorno attraversa quel posto, e parliamo di milioni di persone che per un sacco di anni sono state comunque esposte a un rischio. Quindi di questo comunque anche una bonifica eventuale che potrà riportare all'apertura a settembre difficilmente qualcuno renderà conto per ora. Però insomma stiamo a vedere, queste erano le notizie degli ultimi giorni, vediamo se nelle prossime settimane ce ne saranno di nuove o se invece il tutto verrà rimandato a settembre, quando un po' la questione in un modo o nell'altro dovrà insomma il rettore dovrà renderne conto. Quindi brevemente appunto su questo, questi erano gli aggiornamenti. Io vi lascio ancora un po' di musica, poi iniziamo con la diretta con un studente per il commento sull'approvazione della buona scuola. Non lo cantarem più l'uraga de Marcia, non lo cantarem più lo micro es rompu, non lo cantarem più l'uraga de Marcia, non lo cantarem più lo micro es rompu, lo fora petassa nous disiez la tourmetta, lo fora petassa che tournar en danza, lo fora petassa nous disiez la tourmetta, lo fora petassa che tournar en danza. Se passe, ça marche plus, tout est à la ramasse. Je vois ma ville partir à la casse. Mille bandits lui font boire la tasse. Ici, comment on fait? Qu'on fasse vite pour réparer. Quand se boulègue, il faut s'organiser, se relever, se remettre sur pied. C'est la cata, c'est un brave merdier. Dans tous les cas, ils ne vont pas lâcher. Ne nous laissons plus jamais manipuler. Si on ne dit rien, ils vont tout casser. Ils ont déjà annexé la cité. Ils ont déjà imposé le français. Ils ont déjà détruit les vieux quartiers. Et les grands dans les gars réagissaient. Nous nous cantarem plus l'ouragan des Marciens. Nous nous cantarem plus nos micros est rompu. Nous nous cantarem plus l'ouragan des Marciens. Nous nous cantarem plus nos micros est rompu. On fend des pieds combien de mauvais coups. Longtemps nous les avons gravés dessous. Maintenant qu'ils nous ont mis à genoux, ils voudraient bien nous voir mettre les bouts. Ils nous abrivent, ils nous baladent. Il faut qu'on sorte de cette embuscade. Rien vers la gauche, rien vers la droite. Oh putain, j'ai les mêmes moites. Non nous cantarem plus l'ouragan des Marciens. Non nous cantarem plus le micro est rompu. Non nous cantarem plus l'ouragan des Marciens. Non nous cantarem plus le micro est rompu. Plus de micro, on est mal. À leur radio, je capte que dalle. Y'a que de la pub et du son à deux balles. Pour de bon, ça me casse le moral. Les gars, j'ai la solution. J'ai de l'astronome, monté sur un camion. Envoyez-nous vite une bonne version. Sur tous les sujets, donnons notre opinion. Thank you. la boîte ou boîte comme si tu la condamnes, c'est pour se mettre le feu. Allez, tranquille, boulez de toi, collègue. Massia, in adenso, in cadenza, pour mettre le feu. L'abjection règne. La Commission nationale ne s'est pas opposée à la diffusion de l'émission que vous allez voir, malgré les attaques personnelles et le caractère injurieux et outrancier des professionnels. My name is Lush, O to the N-E. I used to move more meds than an MD. Born hustler before I was an MC. L.A. King, cold as ice, Wayne Gretzky. Straight out the land of the Lakers and Dodgers. I'll be the Chinese man, number one chief rocker. Groovy is the session that I'm blessed with this verse. I love music, but the biz cause more stress and it's worth it. Uno, not D-R-E, but similar to them letters. A legend in the West, bro. You try to play the role, but you're really just an extra. Shoot at you actors like my dad's a director. Savage arrest, your cardiac and the heart you lack. I rap your records like that blondie with the heart of glass. All about my Betty since Fab Five Freddy. You ain't gotta like me, but you better respect me. Hit him with the game-less rap. Flick a shot, keep it live, y'all. Innovators, here to lead the way. See an eye, dog. Game-less rap. Flick a shot, keep it live, y'all. The blind with the blind, so they bow to the cyclops. We be stepping in hot to this year. Fly around the world and the sky so clear. We be stepping in hot to this year. Chris Watts, smoking out in public, no fear. Until the haters talking shit. Hitter and all kids, get in line, get in line. Figure your life out, go hustle and earn clout. Don't waste your time, go outside. To the ladies in the club, searching for true love. Girl, you slipping, must be tripping. If you step into the homies, just rapping a Marseille. I'll put your plug just to end the game like an arcade. Hit him with the game, let's rap. Flick a shot, keep it live, y'all. Innovators, here to lead the way. See an eye, dog. Game, let's rap. Flick a shot, keep it live, y'all. The blind with the blind, till they bow to the side clock. Stepping in hot to this year. Fly around the world in the sky so clear. Stepping in hot to this year. Chris Watts smoking out in public, no fear. Listen, what do you say? They say it's not possible. Money's a criminal. Am I right so far? I'm just saying coincidence is possible. I innovate. I don't think them same old flows. I'm a weirdo. I don't rock them same old clothes. At the same venue, popping at the same old hoes. The game's so cold, but I don't rock them same old shows. Nah, Molly and Chico, I be popping it off. Virgin Air, SFO, straight to Charles de Gaulle. European festivals, I've rocked to them all. And they didn't Photoshop the squad, cause they rock with Ringwald. So go ahead, we gon' go ham on. Dip from the setting all pink like I'm Cameron. We don't gotta pretend, we never follow the trend. But now all of your friends gotta acknowledge the threat. Hit them with the game, let's rap. Flick a shot, keep it live, y'all. Innovators, here to lead the way. See an eye, dog. Game, let's rap. Flick a shot, keep it live, y'all. The blind with the blind, till they bow to the cyclops. We be stepping in hot to this year. Fly around the world and the sky so clear. We be stepping in hot to this year. Chris Watts smoking out in public, no fear. Undici e 31, proseguiamo con questa puntata di Parole Ribelli e torniamo a parlare di buona scuola, il decreto ormai diventato legge proposto dal governo Renzi assieme al ministro Giannini, e lo facciamo assieme a Stefano del collettivo Studenti Autoorganizzati di Torino, che dovremmo avere a questi microfoni. Ciao Stefano. Ciao a tutte e a tutti. Allora, di buona scuola abbiamo parlato più volte in questi mesi, notizia della scorsa settimana che venerdì con l'approvazione definitiva di questo decreto legge, appunto la cosiddetta buona scuola è diventata legge. Nelle scorse settimane il governo Renzi aveva detto che per permettere insomma un'approvazione più celere possibile, quindi di arrivare a un'approvazione già prima dell'estate, avrebbe avrebbe rinunciato ad alcune parti della riforma, che però è rimasta sostanzialmente immutata in quelli che sono i suoi pilastri principali. Quindi ti chiederei innanzitutto magari di spiegarci molto brevemente, insomma, quali sono i punti principali di questa riforma che è stata approvata, poi andiamo a fare qualche commento, insomma, su quelle che sono le prospettive future. Va bene, allora, diciamo che i punti principali sono tre. Il primo, che tocca agli studenti, è la questione degli stage e dei tirocini non pagati. Il secondo, che interessa sia gli studenti che il corpo docenti, è la questione dell'autonomia scolastica e accompagnata all'istituzione di un preside sceriffo, che quindi questo punto va a modificare proprio le dinamiche interne ad ogni singolo istituto di scuola superiore. E poi il terzo punto, che interessa solamente il corpo docenti, è la questione dello sblocco delle graduatorie e in teoria l'assunzione di tutti i precari che lavorano all'interno della scuola superiore. In particolare, la questione dei tirocini interessa soprattutto gli istituti tecnici e professionali, dove verranno fatte 400 ore di tirocini non retribuiti, mentre questa era una cosa che verrà aggiunta in seguito, dovrebbero anche andare ad essere aggiunti 200 ore anche per i licei. La questione invece dell'autonomia scolastica è un po' più complessa, in quanto contiene al suo interno diversi punti. L'autonomia è dettata dal fatto che il preside è lui stesso a scegliere quali professori assumere e dare un giudizio a questi. Infatti d'ora in poi non ci saranno più delle graduatorie nazionali, ma ci saranno delle graduatorie regionali, e in ogni singola regione il preside potrà scegliere quali professori assumere e quali invece rifiutare. Oltre a questo, il preside avrà maggiori poteri decisionali all'interno dell'istituto e si permetterà l'ingresso da parte di esterni come singoli privati di finanziare fino a un massimo di, mi sembra, 100 milioni di euro i singoli istituti, ottenendo anche una detrazione fiscale. Invece la questione dei precari è un po' più articolata e diciamo che è molto fumo e niente arrosto, nel senso che al posto di eliminare la questione delle supplenze, Renzi semplicemente la localizza per ogni singola regione, quindi si andranno a creare delle graduatorie con i precari in ogni singola regione, e in queste regioni i presidi andranno a chiamare o settimanalmente o per un mese o anche per un giorno questi precari per andare a fare queste supplenze. A questi precari verrà dato però un contratto a tempo indeterminato, quindi in poche parole verranno precarizzati a vita e non potranno accedere alla possibilità di avere un posto fisso con una cattedra. Sì, tra l'altro questa questione dei precari era stato uno, insomma, dei cavalli di battaglia con cui il governo aveva pubblicizzato questa riforma, e di fatto vediamo che cambia ovviamente poco per quella che è una sicuramente delle piaghe principali della scuola pubblica per quanto riguarda il versante degli insegnanti, cioè appunto queste attese infinite in graduatorie che non portano da nessuna parte, e migliaia di docenti precari che sono destinati a rimanere tali. Sì, infatti. Senti, come appunto ben spiegavi adesso, si tratta di una riforma comunque molto consistente che tocca un po' tutti gli aspetti della scuola pubblica, quindi da quella dei finanziamenti a quella del versante dei docenti, ma anche e soprattutto quello degli studenti, e in questo senso tra l'altro ha trovato anche un consenso abbastanza ampio all'interno dell'arco parlamentare. Abbiamo visto che insomma le uniche un po' tiepide opposizioni sono state quelle del Movimento 5 Stelle, di una parte di Selma, per il resto appunto è stata abbastanza acclamata, tanto che addirittura stupiva nel giorno dell'approvazione il commento di una deputata di un deputato di Forza Italia che diceva che quella riforma avrebbero potuto benissimo farla loro e che se fossero stati loro al governo sarebbe stata la sinistra a protestare, ma di fatto ha proposto una riforma che prosegue perfettamente, anzi incrementa quelle che erano le direttrici già delle riforme degli anni scorsi. Sì, infatti questa riforma è una riforma che, a differenza di quelle passate, come per esempio quella Gelmini, non va a compiere dei tagli concreti all'istruzione pubblica, ma va a precarizzare anche quest'ultima. Quindi diciamo che è inserita all'interno di quello che è la linea un po' del governo su quello che riguarda il mondo del lavoro e della formazione, anche visto l'approvazione del Job Act di quest'autunno. Rispetto al consenso, effettivamente bisogna dire che inizialmente l'anno scorso, quando era stata presentata questa riforma, gli unici che si erano mossi contro erano stati i movimenti studenteschi in ogni singola città. Al contrario, invece, abbiamo visto che i sindacati, confederati e non, hanno incominciato a muoversi da fine aprile, inizio maggio in poi. Questo perché era diventato concreto la possibilità di un'approvazione. E, abbiamo visto che comunque in questi ultimi mesi, a differenza di quello che magari era successo prima, la questione di questa riforma ha comunque fatto notizia sulle testate giornalistiche e anche a livello mediatico. Anche perché comunque quando si tratta di riforme scolastiche c'è sempre abbastanza movimento all'interno delle piazze, visto e considerato che comunque sono tutte riforme che si pongono nella diretta ottica di ristrutturare l'istruzione pubblica e portarla sempre di più verso un modello anglosassone. Sì, infatti, come dicevi tu, sicuramente la mobilitazione degli insegnanti è stata tardiva e dettata un po' dal rischio ormai imminente dell'approvazione, mentre, come ricordavi, appunto i primi a muoversi sono stati gli studenti con tanti cortei in tutta Italia. Però c'è da dire che in questo il governo Renzi ha comunque fatto la scelta di tirare un po' dritto per la sua strada, anche al costo di inimicarsi, insomma, una fetta di popolazione che probabilmente fino a qualche mese fa era rimasta abbastanza silenziosa rispetto a questi provvedimenti e che probabilmente in passato costituiva anche un bacino elettorale importante del Partito Democratico, del centrosinistra in generale. Quindi in questo abbiamo visto comunque una certa determinazione da parte del governo nel voler tirare dritto e soprattutto nel renderla operativa già dall'autunno. Quindi questo ci porta anche un po' a guardare alle prospettive future, nel senso che chiaramente le mobilitazioni nascono per cercare di impedire l'approvazione, e quando questo è possibile ovviamente una vittoria importante, ma chiaramente in questo caso l'opposizione che potrà essere portata non si è chiusa, insomma, con l'approvazione non credo che nessuno consideri la questione della buona scuola una partita chiusa, ma anzi adesso si tratterà a partire dall'autunno di capire concretamente come si possono mettere i bastoni fra le ruote a questa riforma, come si possono ostacolarne insomma i meccanismi che diventeranno operativi. E in questo abbiamo visto che comunque da parte di una buona fetta degli insegnanti c'è stata una disponibilità a mettersi in gioco, che dovrà essere ravvivata insomma con l'autunno, ma chiaramente questo non potrà prescindere da un coinvolgimento di quelli che poi sono le principali vittime di questa riforma, cioè gli studenti. Sì, infatti proprio il fatto che questa riforma vada a modificare le dinamiche interne di ogni singolo istituto e proprio il modo di vivere e di concepire la scuola stessa, fa sì che questo capitolo non sia assolutamente chiuso, né dal nostro punto di vista, cioè quello degli studenti, né tantomeno da quello dei professori. Quindi pensando un po' all'autunno, sicuramente da parte degli studenti le mobilitazioni continueranno e anzi forse abbiamo anche un po' l'aspettativa che dopo un lavoro abbastanza radicale su questa riforma si riescano a portare anche numeri migliori rispetto aspetti rispetto a quelli dell'autunno passato. La scommessa sarà proprio vedere se ci continuerà ad essere una mobilitazione da parte dei professori, anche considerato il fatto che questa riforma, come abbiamo visto con l'articolo di questa autonomia scolastica, fa sì che i professori siano valutati dal dirigente scolastico e quindi ci possono essere possibili ricatti. Sicuramente pensiamo che comunque nel periodo di tempo che va da settembre a ottobre le mobilitazioni sicuramente continueranno. Sì, a questo proposito so che anche come rete di Sud Auto avete già anche lanciato degli appuntamenti durante il campeggio Notav in valle, durante insomma le ultime occasioni di incontro che ci sono state, quindi alcune date già possiamo darle. Sì, abbiamo lanciato una data di agitazione per il 2 ottobre, che in questi mesi decideremo un po' come declinare, se andare a fare proprio dei cortei a livello nazionale o se invece concepirla come data di rilancio in previsione di un grosso corteo la cui data è ancora da destinarsi. Va bene Stefano, direi che ci hai dato insomma tutte le informazioni del caso per ora, ma chiaramente appunto la partita rimane aperta, quindi ci auguriamo di risentirci insomma dopo l'estate con nuovi aggiornamenti e soprattutto con notizie di mobilitazioni. Io per ora ti ringrazio e appunto ci risentiremo presto. Ok, grazie a voi. Un saluto a tutte e a tutti. Ciao Stefano, grazie. Ciao. Allora, quindi questo per quanto riguarda la buona scuola che è stata approvata la settimana scorsa, e insomma buona scuola per chi verrebbe da chiedersi, come titolava anche InfoOut nei giorni scorsi, e il tentativo sarà anche quello di non cadere nella trappola linguistica che è stata tesa appunto dal governo, che l'ha autoproclamata buona scuola, ma insomma che potrebbe fare un po' passare l'idea che questa effettivamente un provvedimento positivo per la scuola e che chi vi si oppone invece voglia rimanere insomma ancorato a un'idea conservativa e retrograda di scuola. Sicuramente così non è, ma un'idea di scuola alternativa sarà tutta da costruire, appunto come diceva anche Stefano, con le mobilitazioni autunnali, con l'opposizione concreta a questa legge. E quindi chiudiamo un po' la parentesi buona scuola, facciamo una pausa musicale e poi proseguiamo con la puntata. Para cacho no es un pocho hilo. Yo soy rebelde, rebeldías. Yo soy rebelde. Ya, ya. Yeah. rapper like Zapata. But I pop my collar. I know the evil meaning of the dollar. Holla. This for Nicaragua. This for Guatemala. This for all them times that they treated us improper. September 11th, 1973. Santiago, Chile, surrounded by the military. Kinda scary, I see it no different than the city on my street. But I'm surrounded by police and still beat. I ain't trying to get away, only I'm trying to stay. The hood taught me well, and I'm starting to create. We stood up, fought back, beat our case. Got a little bit of change, got a little bit of space. Improving life here, some locals see it clear. No fear, we need MCs, doctors, and engineers. Campesino, jornalero, guerrillero, rebel días. Cafetero, compañeros, I'm a serio, it's real. Gotta train, eat healthy. To read the mind, read books. Become soldiers for the cause till we get the system shook. They started it, but it's no longer a response. It's hip hop, a proposal through the vocals of the Bronx, through vocals of Chicago, screaming stop the violence. Rebels from the ghetto, we all survivors. A few cowards, si le hago, sé que el mundo cambiará. Y siempre represento al sector marginal. Some use pipes, mix me, you better make take a better state. Put money in my mom's hand. Get my daughter this college plan, so she don't need no man. Stay far from timid. Only make moves when your heart's in it. And live the face, sky's the limit. E 53, bentornati all'ascolto di Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo. Ci avviamo verso l'ultima parte per la puntata di questa settimana e dopo il commento sulla buona scuola ci spostiamo verso la cosiddetta buona università, questa riforma che si affaccia all'orizzonte degli atenei italiani sempre per mano del governo Renzi. La scorsa settimana avevamo dato notizia del fatto che una sorta di anticipazione di questa riforma sembrava già essere in cantiere, in particolare grazie all'inserimento di un emendamento da parte di un deputato del PD, Meloni, all'interno di quella che è la riforma della pubblica amministrazione stilata dal ministro Madia. E, appunto, questo emendamento mirava a inserire una serie di modifiche rispetto al valore legale della laurea, che di fatto avrebbe inserito appunto dei discrimini tra università di serie A e di serie B sulla base, insomma, della provenienza della sede dell'ateneo, del voto di laurea e così via. È interessante notare, tra l'altro, come ci ricordava Roberto Ciccarelli in un articolo sul Manifesto di qualche giorno fa, che questo progetto del governo Renzi risaliva in realtà a un'iniziativa analoga che era già stata adottata dal governo Monti nel gennaio del 2012, quando si cercò poi, infine, per fortuna inutilmente, di abrogare il valore legale della laurea, modificando il sistema di accreditamento degli atenei e privilegiando quelli cosiddetti eccellenti, insomma una parola che ritorna spesso anche nei discorsi del governo attuale, distinguendo appunto quelli più poveri del sud, ai quali sarebbero stati erogati fondi decrescenti, privilegiando appunto quelli più considerati più insomma illustri. L'intento appunto del governo Renzi sembra essere rimasto lo stesso, per cui detto in parole povere, una laurea presa a Bari in prospettiva non dovrà avere lo stesso valore di una presa alla Bocconi di Milano, con tutte le conseguenze che ne derivano, quindi con un prevedibile già in atto innalzamento delle tasse in alcuni atenei che diventeranno atenei sempre più classisti per chi se lo potrà permettere, chi quindi uscirà di lì con un pezzo di carta che avrà ancora qualche valore, chi invece verrà parcheggiato per qualche anno in atenei di serie B da cui uscirà praticamente con un foglio del valore della carta straccia. E questo appunto era un po' l'intento di questo emendamento, che era stato inserito un po' così sotto silenzio all'interno della riforma della pubblica amministrazione. In realtà poi questa vicenda è venuta a galla su praticamente tutti i quotidiani nazionali, ha scatenato un po' un polverone sia all'interno sia all'interno dei partiti che da parte di sindacati, docenti, studenti e anche dei rettori. Di fronte appunto a questa bufera, il governo ha deciso di fare un passo indietro, probabilmente insomma perché già impegnato nell'approvazione della buona scuola, quindi per non aprire insomma troppi fronti di scontro contemporaneamente. E per ora appunto si è detto disponibile a cancellare questo emendamento, che per ora sembra quindi scomparso dalle intenzioni del governo. D'altro canto però, come in tanti hanno fatto notare in questi ultimi giorni dopo il dietro front di Renzi, l'intenzione sembra comunque quella di mettere mano agli Atenei, appunto in questo disegno di riforma complessiva che è stato portato avanti in questi mesi, dopo quello del mondo del lavoro col Jobs Act, e poi agli istituti di scuola superiore, e ora appunto anche all'università. E quindi non sarebbe, insomma, non stupirebbe nessuno se appunto una riforma che riproducesse in maniera praticamente tale quale questo emendamento venisse proposta appunto in autunno con questa annunciata buona università. Quindi chiaramente si tratterà di tenere gli occhi ben aperti. Già ci sono stati, insomma, degli incontri in questo senso, dei tentativi di iniziare a confrontarsi per non arrivare all'autunno impreparati, ma essere già in grado, insomma, di spiegare quanto radicale potrebbe essere il cambiamento delle università con l'uscita appunto dalla pubblica amministrazione, con una crescente privatizzazione, appunto con criteri di classificazione sempre più stringenti che andranno a privilegiare alcuni atenei a discapito di altri. Quindi anche in questo caso la partita è assolutamente aperta, staremo a vedere quello che ci consegnerà il governo con l'autunno, ma soprattutto quello che saremo in grado di opporre a questo ennesimo tentativo di riforma. Quindi questo per aggiornare, insomma, rispetto a quanto vi avevamo raccontato la settimana scorsa. Per ora c'è stato un passo indietro, ma stiamo a vedere quel che succede. Io vi lascio ancora un po' di musica, poi passiamo all'appuntamento settimanale con le storie di Valderrama. Y tener la capacidad de parar el tiempo, de ser yo mismo, de expresar lo que siento tranquilo, pienso bien lo que estoy diciendo. Cuando escribo logro sentirme vivo, logro sentir en mí esa sensación de alivio, y veo como cada frase hace las paces con la que sigue, mientras mi mente consigue lo que escribo y lo que digo de algún modo conectarlo, y yo sigo atado con las mismas cuerdas con las que hablo. Porque quiero cantar palabras rebeldes al mundo, para comunicar mi desconformidad lo hago con música. Rap-a-pam-pam. Entre tinta, entre mí, con rimas y hojas de papeles, en el underground bocina, rimas y altos decibeles. Nació, creció, ya vive, el MC ya ahora escucha, sigo en la lucha, razones sobran mucha gente, cada cabeza es un mundo diferente. Me dices ser demente por expresar lo que se siente, lo que se quiere, lo que se busca, y lo que se encuentra, lo que se pierde, lo malo bueno en el verso se concentra. Yo canto y escribo lo vivido y sus encantos, en la gente, en la tierra, en sonrisas y en sus llantos. Sale desde el pecho y me encuentro satisfecho, poco, mucho, triste, alegre, cada sueño es un hecho. Acecho y cada reto lo narro en soneto, escribo un rapeo, la mejor paga es el respeto. Sin duda lo demás viene por añadidura, con los pies en el suelo y la mano en la escritura. Escribir me alimento, si no lo hago muero, me pudro por dentro. Yo tengo canciones en los dedos que fluyen rabiosas en este cuaderno. Yo quiero que sean mis canciones, mis signos de guerra. Pasó, no hay escuela adentro. Tengo paz, pero afuera pelea, pelea, daré al sistema. Porque quiero cantar. Porque prefiero el canto al llanto. Porque la mala piedra así la espanto. Y aunque a veces me quebranto cuando siento que no aguanto, canto. Desde que me levanto y agradezco al universo por acogerme en su manto. Porque la música es la vida, es energía que vibra. Es un verso, una metáfora, una poesía. Porque mi canto es un lamento por nuestras vidas, nuestras historias, nuestros tormentos, por nuestros buenos y malos momentos. Eso es hip hop, movimiento, no entretenimiento. Porque quiero cantar palabras rebeldes al mundo, para comunicar mi disconformidad lo hago con música. Más que un canto es un llanto, que gasto las reglas porque no me Allora, Palabras Rebeldes, come ci suggerisce l'ultimo pezzo ascoltato, ci avviamo verso la conclusione. Anche per questa settimana vi facciamo ascoltare le storie della Buonanotte di Valderrama, questa, insomma, progetto che vi abbiamo presentato un paio di settimane fa e che vi stiamo proponendo con continuità. Visto, insomma, il periodo estivo e bollente, periodo fertile per pettegolezzi di ogni sorta, ci adeguiamo anche nella scelta del pezzo di questa settimana. Vi faremo ascoltare le chiappe chiacchierate, il capitolo secondo. Vi vado a leggere qualche riga di questo pezzo per, insomma, invogliarvi un po' nell'ascolto. Scrivono per presentarlo: sbirciate sudate, bocche tremolanti, frusci peccaminosi e pettegolezzi sussurrati nelle orecchie pelose dei massaggiatori, allenatori col pugno di ferro e allenatori in seconda con le mani di fata, onorevoli terzini superdotati, centravanti che in settimana danno tutto, giorno e notte e dentro e fuori dal campo, dentro e fuori, fallo e controfallo, stantuffate, sospensori fustigati, docce gelate, mani bollenti, figli illegittimi e multicolore. Questo, appunto, le chiappe chiacchierate, capitolo secondo. Io vi lascio ancora un pezzo, poi ve lo facciamo ascoltare subito. This is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on top. It's tricky, it's right. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky, tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. Tricky, tricky, tricky. I met this little girlie. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. Really sleazy. All they just say is please me. Or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, that's right on time. It's tricky. How is it, Dave? It's tricky, tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around. Rock around, that's right on time. It's tricky. Yeah. Tricky, tricky, tricky. In New York, the people talk and try to make us rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time. Windows don't mean nothing, they know who's inside. It's tricky to rock around, that's right, on time, it's tricky. How is it, G? Tricky, tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, that's right, on time, it's tricky. Tricky, tricky, tricky, tricky, huh. Allora, quando sono le 12:07 vado a farvi ascoltare, come vi dicevo pochi minuti fa, le chiappe chiacchierate. Colucci a una via sotto la vetrina nell'estadio, rinato dalla Rale Bologna. La preda per la Nasse viene in Nasse nel recesso, ma viene in estrema retaguardia del selezionato nazionale. Rindon Gaffè, Fue, Fue, Fue, Fue, Fue, Fue, Fue, in cambio di pierna. A chi viene il pibe? Candelo, Candelo, conmigo, già viene, già viene, già viene. E quel pibe Valderrama le va a pegare, e va abajo. nuestro Pibe Valderrama. Le storie della buonanotte di Valderrama. Sbirciate, sudate, bocche tremolanti, frusci peccabinosi e pettegolezzi sussurrati nelle orecchie pelose dei massaggiatori, allenatori col pugno di ferro e allenatori in seconda con le mani di fata, onorevoli, terzini superdotati, centravanti che in settimana danno tutto, giorno e notte, dentro e fuori dal campo, dentro e fuori. Fallo e controfallo, stantuffate e sospensori fustigati, docce gelate, mani bollenti, figli illegittimi e multicolore. Chiappe chiacchierate. Roma, 1951. La classifica piange già da un po' e nessuno sa spiegarsi il perché. Qual è il demone che si è impossessato della squadra? I ragazzi sono in ritiro punitivo da giorni, poco fuori Roma. Il biliardo, il biliardino, i flipper con le luci intermittenti. Qualcuno è riuscito a imboscare un borsone militare nel portabagagli, nascosto sotto le tute di lanetta rancide di sudore. Sheena e Tiger Girl, le cosiddette Tarzanidi, si agitano con mosse esotiche suggestive contro leopardi e gorilla sulle pagine di un giornaletto appena aperto e già consunto. Le dita callose si muovono frenetica alla ricerca della bottiglia di Bat 69, fra le mutandine di vecchie fidanzate e i flaconi di unguento al The Pets Quit. Ma non basta, i ragazzi hanno fame. Le frustrazioni, gli sfottò dei giornalisti, i silenzi stampa li hanno paralizzati da settimane. Nessuno in campo se la sente più di prendere l'iniziativa o di prendersi un'altra pernacchia. Il giorno dopo partiranno per Milano, per l'ultima partita contro i campioni d'Italia, ormai ininfluente. Dicono sia l'occasione di salvare la faccia. Al terzo cambio di allenatore, è evidente che la colpa sia della squadra. Sono quasi le 2 di notte e i ragazzi hanno esaurito le barzellette sconce. Lo spilungone svedese è abituato a ben altro. Là le donne sono più aperte, si dice che in Italia. Là non c'è il Vaticano, là fa freddo e si sta stretti. Là, già dalle elementari, si fa educazione sessuale. Per il resto della serata lo svedese è rimasto accovacciato in un angolo a sfogliare freddamente i fumetti con le donne nude, annoiato. Finalmente alza lo sguardo sornione verso i compagni. Prima che apra bocca, gli altri hanno già capito cosa stia per dire. «Tutti da zia Vincenza!» urlano in coro. L'allenatore in seconda e i magazzinieri hanno già mollato da tempo. Per evitarli uscire dall'albergo, basta una 1000 lire. Tre tassi aspettano fuori dal cancello. I ragazzi si stringono nei sedili posteriori e l'aria fresca della notte inizia a inturgidirli. I sensi si risvegliano dal torpore di moquette e canzonette che li aveva avvolti per tutta la serata. Zia Vincenza, o l'onorevole come lo chiamano fra di loro, apre la porta del suo piedaterra di Monti. È vestito da geisha. Sorride malizioso sotto i folti baffi bianchi vagamente ingialliti dalla nicotina. La dentiera aiuta a creare sul suo volto un'espressione congelata, ieratica, artificiale. I piccoli occhi porcini si stringono fino a sembrare delle mandorline. I piccoli occhi non vedono bene senza occhiali. I piccoli occhi scrutano e si mangiano con gli occhi i giovanotti prestanti che stanno per entrare nella tana del lupo. Lo svedese è il primo a varcare la soglia e ad essere inebriato dai profumi orientali. Anche il press agent dell'onorevole indossa un kimono e si seduto su una chaise longue e giochicchia con l'infradito di legno sfregando la luce e il secondo dito del piede al ritmo dei tamburi del codo in sottofondo. Il resto è una nuvola scura e densa di fumi genitali, macchie sul tappeto, occhi sgranati e lacrime di colpevole lussuria. È mattina. L'odore del caffè bruciato copre quello acre della nottata. La dentiera frigge nel bicchiere di vetro color fondo di bottiglia. I ragazzi partono presto. Dormono come bambini in treno e la notte successiva in albergo. Vincono col Milan. Il risibile pubblico di Romani a San Siro non applaude e esce mesto dallo stadio. Retrocessi con disonore tornano dalle proprie mogli, fidanzate, dagli amanti e dalle mignotte della salaria. Ritiratevi, datevi all'ippica. All'epoca si diceva così. Le parole non li feriscono, non attecchiscono. Sotto i caschi di folti capelli e brillantina, un tamburo giapponese continua a rimbombare. E una sola frase echeggia ogni notte nel talamo nuziale. Amò, che te lo metti il kimono stasera? Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per il suo fare birichino. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Io vorrei quella cosa tanto cara, deliziosa, che fa il cuore sospiroso, che fa il cuore palpitare. È una cosa, sai che cosa, che di notte misteriosa fa il mio cuore sospiroso, fa il mio cuore trepidare di passione. Mamma, non so più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino. Ora son cresciuto e sento un fremito nel cuore che, oh mamma, è il segnale dell'amore. È una nuova fiamma, un delizioso sentimento che mi brucia ancora come un languido tormento. È una dolce fiamma che a morire è destinata se, oh mamma, non avrò la fidanzata. Fate dai capelli d'oro, no, non posso più sognare. Sogno tremuli, bacin d'amore. Mamma, voglio anch'io una pupetta per baciare, che non faccia come quella in sogno sospirare, che mi stringa forte sul suo cuore innamorata, sì. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Segnale dell'amore, nuova fiamma, dolce sentimento, che tormento. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata, fate dai capelli d'oro, no, non posso più sognare. Sogno tremuli, bacin d'amore. Mamma, voglio anch'io una pupetta per baciare, che non faccia come quelle in sogno sospirare, che mi stringa forte sul suo cuore innamorata, sì. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Thank you. ascoltato Le storie della buonanotte di Valderrama.it. Allora, queste erano le storie di Valderrama. Nel frattempo abbiamo fatto le 12:20, quindi io mi preparo come sempre a leggervi e ricordarvi gli appuntamenti della settimana, ma non prima di avervi lasciato un po' di musica. We the people are the ones who gonna have to fight. We used to say, which side are you on? Which side are you on? The truth is, we're in so much debt that the only way out is revolution or war. So now the question is, which side are you on? On, on, on, on, on. Which side are you on, boy? Which side are you on, my daughter? Which side are you on, boy? Which side are you on? See, before I draw the line, let me welcome you close to all the folks who knew Obama, sold the people a hoax, gave the money to suckers while our community's still poor, withdrew the troops but started another war, colonizing, terrorizing, creating the oil crisis, so they can make a killer, no food and gas prices, prisons is filling, they trying to lock up the future, militarized borders and control of computers, want a stupid bumping music that ain't healthy for the shortest, privatizing schools and policemen in the hallways, can't be dormant, I'm awoken. Rise up, be ready, brought the family with us, and we hold the machete. Riding the fence, too many people be riding the fence. Yeah, you say you ready for war, but are you convinced? I'm not convinced. If you're a rider, freedom fighter, crowd excited, then let's do this. We can make one big united middle finger to the U.S. Give me the bravest and the truest, fuck the hippest and the coolest. We gon' spark this revolution and cross this off our to-do list. Put your foot down if you look down on this criminal system. Put your book down and get shook down like my niggas in prison. They'll be condemning and condoning their actions in one sentence. But keep your mind, choose your side. Is you a patriot or a menace to society? So riot or sit by quietly. But don't pull out the flag and try to say you gon' ride with me. You flip-flopping like hip-hop. I don't get locked in that trick box. Get got like Big and Pop. Shit's got to stop. I am the people, not the pig. I repeat after Fred. So please blow my brains out if I ever forget. I'm up with independent thinkers. I'm down with the movers and the shakers and the ex-Henny drinkers. The non-smokers, the health advocates, the non-voters. The young bloods in the hood training like soldiers. I'm on the side of the cats with the hood guards. The little child that don't color inside the margins. I don't ride the fence, I cultivate my strength. Cause if it ain't about power, it don't make sense. I've been down with Boogie Down since BDP, some brown pride. And black power make RBG. A OG told me choose battles wisely. In the struggle, don't forget your children and your wife. If you don't see me on the podium preaching it, every day I hope my every action is teaching it. Cause revolution is a process, it's not a speech or a panel. They bite off more than you can handle. Rock hard like slingshots in Palestina. Con todos los estudiantes por educación gratuita. I'm with workers uprising and the right to unionize. We ain't crossed the border, so you better legalize. I'm with La Peña del Bronx. I'm still with Vitor Toro. Cause gentrification is polluting my borough. So bro, never. Stealth bombs forever. Decolonize the block, make your neighborhood better. I ain't down with the rich, I'm more Richie Perez. Don't talk to grand juries or cooperate with feds. I'm with students, doctors, janitors, teachers. We need living wages, but they don't believe us. Moneta, Barreto, Spofford, Hunts Point, my point, my hood, I love. We join forces, pulling our deck, we exit. Taking over buildings, rebel fiats for the children. Politics to sickness, streets express symptoms. Caught up with a quickness, big business pimps them. Scholars play the simpleton, fools play with wisdom. Who will stand and fight back? Who will play the victim? Trials and tribulations, injured generations. Stolen history and outsourced innovation. Babel Tower fell, tribes are at war. The battle story's not represented in the score. The game's fixed, most of the faces and names switched. Credit stolen for art, science, religion, language, technology, philosophy, and with strangers. They paid in Haitian for the knowledge of the ancients. Power in words, actions, good swords. Aim Panthers, Brown Berets, young lords. Pick a side, one sickness, one cure, one love, one blood, one world, but one war. Allora, 12:25, prima di salutarci vado a ricordarvi gli appuntamenti per chi è costretto a Torino e cerca un'oasi felice in questo caldo. Ricordo che per quanto riguarda gli appuntamenti del martedì sera all'asilo sono per ora sospesi, c'è stato l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva martedì scorso, mentre rimane l'appuntamento invece del mercoledì sera al Mezcal Squat dalle ore 19 per la cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare da bere o da mangiare. Arriviamo invece a giovedì 16 luglio per quanto riguarda i sostenitori delle libere frequenze di Radio Blackout. L'appuntamento è qui in via Cecchi 21 barra con l'appuntamento consueto della Piola di Blackout. Questa settimana ci sarà un concerto live in cui suonerà la Bang Bang Band Girl direttamente dal Perù con del rock and roll blues. E arriviamo al weekend, dunque venerdì, tre giorni Notav in valle, incontro con i Maquis catalani, 17, 18 e 19 luglio dalle basi partigiane di Mezzenile al Col dell'Issa, al cantiere del Tav. Per quanto riguarda venerdì, il ritrovo è alle 18:30 al Monte di Mezzenile per preparare 19:30 ritrova al bar Piazza di Mezzenile, alle 20:30 Bella Vita, cena e presentazione e sistemazione nelle baite. Per quanto riguarda invece sabato 18, rimanendo in tema di lotta Notav, ricordo che si aprirà l'appuntamento del consueto campeggio Notav a Venaus. Sabato appunto sarà il primo giorno di apertura, ci saranno già delle iniziative resistenti a Venaus e dintorni, e poi la serata con cena al presidio e DJ set trash. Mentre per quanto riguarda la giornata di domenica, ci sarà una passeggiata in Clarea con partenza da Giaglione alle 15:30 e la sera di nuovo cena al presidio di Venaus a cura del comitato di Susa. Quindi questo per quanto riguarda solo le prime due giornate del campeggio, che andrà avanti appunto dal 18 fino al 26 di luglio. Il programma completo lo trovate su notav.info, ci sono tante iniziative sia di dibattito che anche di lotta tra il cantiere e dintorni.

12:32, allora anche per questa settimana Parole Ribelli vi saluta. Io vi invito come sempre a rimanere sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Tra pochissimi minuti andrà in onda il GR, poi si prosegue con la consueta programmazione del martedì. Io vi auguro una buona giornata e per quanto riguarda Parole Ribelli ci risentiamo martedì prossimo, sempre dalle 10:45 alle 12:45. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.